598. Stiacciata alla Livornese. Le stiacciate alla Livornese usansi per Pasqua d'uovo, forse perché il tepore della stagione viene in aiuto a farle lievitar bene e le uova in quel tempo abbondano. Richiedono una lavorazione lunga, forse di 4 giorni, perché vanno rimaneggiate parecchie volte. Eccovi la nota degli ingredienti necessari per farne 3 di media grandezza o 4 più piccole. Uova numero 12, farina finissima chilogrammi 1,800, zucchero grammi 600, olio sopraffine grammi 200, burro grammi 70, lievito di birra grammi 30, anaci grammi 20, vin santo decilitri 1,5, marsala mezzo decilitro, acqua di fior d'aranci decilitri 1. Mescolate le 2 qualità di vino e in un po' di questo liquido ponete in infusione gli anaci dopo averli ben lavati. A tarda sera potete fare questa prima operazione. Intridete il lievito di birra con mezzo bicchiere di acqua tiepida, facendogli prendere la farina che occorre per formare un pane di giusta consistenza che collocherete sopra il monte della farina entro a una catinella, coprendolo con uno strato della medesima farina. Tenete la catinella riparata dall'aria e in cucina, se non avete luogo più tiepido, nella vostra casa. Seconda operazione. La mattina, quando il detto pane sarà ben lievitato, ponetelo sulla spianatoia, allargatelo e rimpastatelo con un uovo, una cucchiaiata d'olio, una di zucchero, una di vino e tanta farina da formare un'altra volta un pane più grosso, mescolando ogni cosa per bene, senza troppo lavorarlo. Ricollocatelo sopra la farina e copritelo come l'antecedente. Terza operazione. Dopo 6 o 7 ore, che tante occorreranno, onde il pane torni a lievitare, aggiungete 3 uova, 3 cucchiaiate d'olio, 3 di zucchero, 3 di vino e farina abbastante per formare il solito pane e lasciatelo lievitar di nuovo, regolandovi sempre nello stesso modo. Per conoscere il punto della fermentazione, calcolate che il pane deve aumentare circa 3 volte di volume. Quarta operazione. 5 uova, 5 cucchiaiate di zucchero, 5 d'olio, 5 di vino e la farina necessaria. Quinta ed ultima operazione. Le 3 rimanenti uova e tutto il resto, sciogliendo il burro al fuoco, si mescoli ben bene per rendere la pasta omogenea. Se il pastone vi riuscisse alquanto morbido, il che non è probabile, aggiungete altra farina per renderlo di giusta consistenza. Dividetelo in 3 o 4 parti, formandone delle palle, e ponete ognuna di esse in una teglia sopra un foglio di carta che ne superi l'orlo, unta col burro, o vestia ben larga, e siccome via via che si aumenta la dose degli ingredienti, la fermentazione è più tardiva, l'ultima volta, se volete sollecitarla, ponete le stiacciate a lievitare in caldana, e quando saranno ben gonfie e tremolanti, spalmatele con un pennello prima intinto nell'acqua di fior di arancio, poi nel rosso d'uovo. Cuocetele in forno a temperatura moderatissima, avvertendo che quest'ultima parte è la più importante e difficile perché, essendo grosse di volume, c'è il caso che il forte calore le arrivi subito alla superficie e nell'interno restino mollicone. Con questa ricetta eseguita con accuratezza, le stiacciate alla Livornese fatte in casa, se non avranno tutta la leggerezza di quelle del Burchi di Pisa saranno in compenso più saporite e di ottimo gusto.